Grazie, fratello. Grazie, Marco. Volevo ringraziare il gruppo Lode. Che bellissimo momento di adorazione, di lode. Ilaria, tu hai una bellissima voce, ma migliora col tempo. È straordinario. Io stasera ero in adorazione con le mani alzate, gli occhi chiusi, e sentivo questa voce e dicevo, ma che bellissima voce che abbiamo, e pensavo che fosse Melissa che avesse cambiato qualcosa nella sua voce. Ho aperto gli occhi, ho visto Ilaria. Ilaria è una bellissima voce, siamo grati a Dio per questo dono che è al nostro servizio. Grazie, grazie. L'ho emozionata, non volevo. È fantastico, che bello, Dio dà dei doni ed è nostra scelta di mettere a servizio i doni e i talenti che Lui ci dà per il bene comune della Chiesa e dell'avanzamento del suo regno. Non è qualcosa che dobbiamo prendere dare per scontato, pensare che questi ragazzi fanno quello che fanno senza sacrifici e magari giusto per il piacere di essere sotto i riflettori. Anzi, vi assicuro che molti di loro non vorrebbero stare qui, vogliono scappare quanto prima possibile, ma lo fanno per servirci, perché riconoscono di avere un talento e lo mettono al servizio di Dio. Ora, non sono solo loro ad avere dei talenti. Gesù lo dice molto chiaro, che Lui ha dato e ha distribuito talenti e capacità a ciascuno di noi e si aspetta che questi doni e talenti che Lui ha affidato a noi possano portare frutto, perché Lui un giorno tornerà. Amen? E quando Lui tornerà ci chiederà conto di cosa abbiamo fatto, delle nostre capacità, del nostro tempo, anche dei nostri soldi. Quando Gesù parla della parabola dei talenti, i talenti non è il talento che conosciamo noi, no? La capacità di cantare, la capacità di suonare, la capacità di dipingere, no? Gesù sta parlando di soldi, i talenti erano dei soldi. E quindi per rendere proprio pratica la cosa, dice... Dio è come se ci ha affidato dei conti bancari, degli investimenti, ce li ha dati dei soldi, che è il nostro tempo, le nostre capacità, anche le nostre finanze, per poi dire investitele bene, perché io tornerò e vi chiederò conto e poi vi premierò. In questa sala, in questa stanza, ci sono solo persone che verranno premiate. Amen? Non ci sono persone che verranno punite e allontanate, anche se la storia, vi ricordo, che prevede anche questo. Ma in questa stanza abbiamo solo persone che verranno premiate per l'investimento che noi facciamo con i nostri averi. Quindi investiamo bene, ed è proprio quello che ci stiamo dicendo in queste settimane. Noi vogliamo vivere una vita per le cose che hanno un valore. Oh, come siete preparati! Fantastico! Voglio leggervi un verso. La cosa che mi piace della nostra Chiesa è che non si inibisce e non si intimidisce a parlare di tutto quello che Gesù ha insegnato. È bello questo. Io sono grato a Dio per il coraggio che mi ha dato la scorsa settimana di predicare sull'inferno. Quanti hanno accolto la parola che ho dato? Quanti la stanno ancora elaborando? Non so. Oggi non parlo dell'inferno, va bene. Però vi leggo un altro verso che non è facile. Cioè, le parole di Gesù non sono sempre state, come dire, delle pillole di bontà e di dolcezza. A volte è stato molto duro e diretto, ma proprio perché chi ama è una persona che dice il vero. È una persona che è sincera, e Gesù è colui che ci ama per eccellenza e quindi ci dice le cose così come sono. E guardate con quanta chiarezza dice qualcosa che conosciamo molto bene tutti quanti, ha a che fare proprio con le ricchezze di questa terra. Dice: non accumulate ricchezze in questo mondo. Non accumulate ricchezze in questo mondo. Qui i tarli e la ruggine distruggono ogni cosa. È vero? Io ho una macchina bellissima, una Golf dell'86, e ne vado fiero perché cammina ancora. E io credo che le macchine devono avere solo questa caratteristica, quattro ruote e camminare. Però si arrugginiscono, vero? la mia ha buchi dappertutto. Un giorno mi ritroverò come i Flintstones a spingere la macchina con i miei piedi, perché ha ruggine da tutte le parti. Per questo ho difficoltà anche a investire in una nuova. Molti mi dicono, ma comprati un'altra macchina e prendi una benedetta macchina usata. E io ho difficoltà a comprarla perché si arrugginisce. E io non voglio investire i miei averi in quella cosa. Io voglio investire in cose migliori. Però a un certo punto la comprerò un'altra macchina, perché insomma non voglio fare la fine dei Flintstones. Gesù è sincero e dice, qui i tarli e la ruggine distruggono ogni cosa. E i ladri vengono e portano via. È vero? I ladri vengono e portano via. Tu investi, ti sacrifichi, tu fai ogni tipo di sacrificio per qualcosa che ti è prezioso e poi viene qualcuno e te la ruba via. C'è qualcuno che sta sperimentando in quest'ultimo periodo proprio questa verità di Gesù. È una realtà. Accumulate, però, aggiunge Gesù, accumulate piuttosto le vostre ricchezze in cielo. Abbiamo la possibilità di accumulare ricchezze nei cieli. È straordinario l'appello di Gesù. Dice, voi potete fare l'investimento per eccellenza che nessuno potrà capire bene, però io e voi lo capiremo e io e voi ne godremo per l'eternità. Accumulate per ricchezze eterne. Quando qualcuno ti chiede, ma tu cosa fai dei tuoi soldi? O vorresti, perché non compri una nuova macchina? Dì, no, io c'ho un conto bancario straordinario. È un conto, non è arancio, e non è delle poste, non è Unicredit, è un conto che è chiamato così, conto del regno dei cieli. Io sto investendo lì. Dono perché amo è la nostra opportunità di investire per cose che hanno un peso eterno. E se non ti fidi di quello che noi facciamo con i soldi che raccogliamo, perché magari a volte questo è il limite che abbiamo come credenti, no, non ci fidiamo, e chi lo sa che cosa farà la squadra pastorale ora con questi soldi? Magari non sono d'accordo, magari lo investiranno. Allora io ti invito non darlo a dono perché amo, ma investilo per il regno dei cieli. Perché questo è veramente l'intento anche di fare dono perché amo, darci un'occasione per scuoterci e dirci, noi vogliamo fare in modo che anche il nostro portafoglio parli del nostro amore per il Signore Gesù, parli delle cose eterne, parli del nostro desiderio nell'investire per cose eterne. Dai i tuoi soldi alle missioni, dai i tuoi soldi ai poveri, dai i tuoi soldi a coloro che vedi essere bisognosi, dai i tuoi soldi per iniziative e progetti evangelistici. Se darai i tuoi soldi a dono perché amo, io ti assicuro che questo è tutto ciò che noi faremo. Se ti fidi della mia parola, allora dona perché ami con me la Chiesa e i piani e i progetti che Dio ha per noi. Accumulate piuttosto le vostre ricchezze in cielo, dice Gesù. Là, i tarli, questa è garanzia, no? Questa è la garanzia del direttore della banca, ed è Gesù stesso il direttore della banca. I tarli e la ruggine non le distruggono e i ladri non vanno a rubare. Una buona notizia. Sono degli investimenti sicuri, non sono instabili, sono certi e sono duraturi per l'eternità. Bellissimo, no? Perché dove sono le tue ricchezze, là c'è anche il tuo cuore. Questa è una frase che sembra così, no? Cioè, che è conclusiva, no? Ma è veramente proprio di sostanza. Perché Gesù sta dicendo, è così importante che voi valutate che cosa fate con i vostri soldi, perché dove state mettendo i vostri soldi, la direzione verso il quale i vostri soldi vanno è la stessa direzione che il vostro cuore segue. E quindi se noi diamo, investiamo, spendiamo per noi stessi, per i nostri bisogni, per avere una camicia più bella, una macchina più bella, questo è poi tendenzialmente dove sarà il nostro cuore. Ed è Gesù che ci dà un avviso a dire non fate in modo che la vostra vita poi sia legata a queste cose, ma fate in modo che il vostro cuore sia legato alle cose eterne, al cielo. Per alcune settimane abbiamo letto e riletto questo verso che si trova in Colossesi, capitolo 3, dal versetto 2, e ve lo voglio rileggere anche stasera. Dice la parola di Dio in Colossesi 3:2, aspirate alle cose di, non a quelle che sono, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Noi come Chiesa per la visione di questo nuovo anno e per quello che ci sta davanti come futuro di Chiesa, vogliamo concentrarci su cose che hanno un valore e una duratura eterna. Amen? Siete con me in questo? Questo è per ciò per cui noi vogliamo vivere. Non vogliamo vivere per le cose che sono su questa terra, vogliamo vivere per quelle cose che sono vere per l'eternità. Per questo abbiamo parlato dell'inferno, per questo abbiamo citato il paradiso, per questo abbiamo parlato dell'urgenza di portare salvezza alle persone che sono attorno a noi. E questa è la visione che noi abbiamo per questo 2000 anno, per questo nuovo anno 2019. E in questo nuovo anno, siamo al 18? Non è il 19, sono avanti, proprio lo Spirito Santo sta fluendo proprio in una maniera profetica, stiamo avanti di 2 anni. Evidentemente sarà anche la visione del 2019, ok? Gesù per tutti, possiamo vedere questa immagine? Gesù per tutti, ci piace? Per il 2018, sicuro per il 2018, forse a sto punto anche per il 2019, questa è la nostra missione, portare Gesù a tutti, perché Gesù è per tutti, ci piace? Noi vogliamo che Gesù sia qualcosa di accessibile a tutti, noi crediamo in Gesù. Noi seguiamo Gesù, noi arrendiamo la nostra vita a Gesù. Gesù è il centro della nostra esistenza. Lui è colui che ci ha fatti rinascere. Lui è colui che ci ha fatti risorgere. Lui è colui che ha dato senso e ragione di vita a ciascuno di noi. Lui ha determinato il prima e il dopo e ha cambiato la nostra storia per l'eternità. Amen. Questo stesso Gesù che è vero per noi, noi vogliamo che sia vero per tante e tante altre persone. Questa è la nostra visione. E visto che noi dipendiamo così tanto da Gesù e vogliamo seguire i suoi insegnamenti, vogliamo arrenderci e lasciarci guidare da lui, io con voi stasera voglio leggere 2 storie, 2 parabole che Gesù insegna. Ok? Questa è la cosa più importante, che noi non ascoltiamo le parole di un uomo. Non è importante quello che io vi dirò questa sera, è importante quello che Gesù ha da dirci questa sera. E le sue parabole, i suoi insegnamenti sono ancora attuali e veri oggi e noi vogliamo dipendere da questi insegnamenti. Sono 2 storie meravigliose che esprimono il sentimento che Gesù ha per i perduti. Quindi le leggiamo insieme da Luca capitolo 15 versetto 1. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui, a Gesù. Chi erano i pubblicani? Erano delle persone, erano degli imbroglioni, erano i mafiosi dell'epoca, erano delle persone di pessima reputazione nel popolo di Israele, perché estorcevano e cercavano di fare soldi attraverso le tasse, però prendevano una parte maggiore da coloro ai quali chiedevano le tasse per trattenersi una parte, vivevano per i soldi, vivevano per le ricchezze, erano visti male, però si avvicinavano a Gesù, Gesù li accoglieva. I peccatori, chi erano i peccatori? Erano quelli che visibilmente vivevano una vita nel peccato, prostitute, persone che avevano dipendenze, persone che erano sviate in ogni senso e in ogni direzione e sicuramente di queste persone non si poteva dire che erano uomini e donne di preghiera, che riconoscevano Dio quale creatore e vivevano per Lui. Queste persone, questo tipo di persone si avvicinavano a Gesù. Ma i farisei e gli scribi, che erano i religiosi, mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed è esattamente quello che faceva Gesù. Era veramente quello che faceva. Lui stava con i peccatori, lui mangiava con i peccatori. Non lo stanno accusando di qualcosa che lui non faceva. Faceva esattamente questo. Ed egli disse loro questa parabola, quindi Gesù racconta queste storie proprio per rispondere a questa perplessità e questa critica dei farisei e disse loro quindi questa storiella: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. L'altra storia è questa. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico che vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. La terza storia che Gesù racconta, e che non andremo a leggere, una parabola più lunga, è quella del figlio il prodigo. La conosciamo tutti molto bene. Quindi Gesù racconta queste tre storie concatenate che hanno degli elementi in comune. Vogliamo vedere questi elementi in comune, perché è così importante capire che Gesù è ripetitivo attraverso queste storie per rispondere alla perplessità dei religiosi e far capire loro perché lui sta spendendo del tempo e ha piacere nel cercare e stare insieme ai peccatori, ai pubblicani, agli imbroglioni, ai mafiosi. E Gesù per rispondere a questa perplessità, fondamentalmente quello che sta dicendo è: io ho un sentimento verso queste persone. Ed è il sentimento di aver perso qualcosa. Gesù racconta tre storie di tre perdite. La prima è la perdita di una pecora, la seconda è la perdita di una moneta. Del dramma, il dramma era una moneta, un pezzo di argento che era del valore circa tra i 30 e i 50 euro. Non altissimo valore, ma qualcosa di comunque prezioso. E poi la terza storia è di un figlio perduto. Quindi Gesù sta parlando in tre storie diverse di qualcosa che si è perso e che lui ha l'urgenza, ha il desiderio e ha la passione di ritrovare. Hai mai perso qualcosa di valore? Il sentimento che hai vissuto quando hai perso quella cosa di valore, te lo ricordi? Quando magari hai perso un anello, hai perso il portafoglio o le chiavi della macchina, che nel mio caso non sono per niente un dramma, diciamo, se perdo le chiavi della macchina o se me la rubano, mi fanno un favore perché mi incoraggiano a comprare una nuova macchina. Parentesi chiusa, però quello che voglio dire è che noi conosciamo quel sentimento quando perdiamo qualcosa. Gesù sta dicendo: ora io vorrei che voi capite bene perché io sto passando del tempo con loro, perché io ho quel stesso tipo di sentimento, a me mancano queste persone, io le voglio, io le desidero, io le ricerco, per me sono preziose. Ed è bellissimo vedere questo. Perché Gesù attraverso queste storie non sta facendo altro che manifestare il suo cuore. Qualcosa che ci sconvolge, perché a volte abbiamo un'idea di Gesù molto diversa. Abbiamo un'idea di Dio molto diversa. E noi dobbiamo raccontare queste storie alle persone che ci sono attorno a noi, nella società, perché molto spesso proprio i peccatori, proprio coloro che commettono dei peccati e sanno di sbagliare, di essere in una condizione di torto nei confronti di Dio, si sentono indegni di poter andare da Dio, si sentono in colpa, si sentono imperfetti. A volte quando noi parliamo con le persone, vi è mai successo che la risposta che abbiamo è: ma io non sono come te? In altri termini stanno dicendo: io non sono una persona buona abbastanza da poter venire in chiesa ed essere accolto da Dio. Io non prego, io non leggo la Bibbia, io non sono, la mia vita non è tutta in ordine, non è tutta perfetta. Perché il sentimento di fondo, che è un sentimento religioso, ci porta a credere che Dio ci accetterà nel momento in cui noi cambieremo. Che Dio ci abbraccerà e ci accoglierà nel momento in cui saremo diversi. Ma queste storie che Gesù racconta ci parlano della grazia sua, del fatto che è Lui che ci sta cercando nella nostra condizione peggiore. È Lui che va alla ricerca della pecora che è persa, la va a cercare nel deserto. È Gesù che va a cercare attraverso l'immagine della donna questa moneta che è persa, che è caduta, che è fra la polvere. E spazza la casa per cercarla perché vuole trovarla. Questo è il sentimento che Gesù sta condividendo. Io spero che noi come Chiesa possiamo far nostro il sentimento di Cristo. E il nostro cuore possa battere in una maniera sincronizzata e sintonizzata al suo di cuore. Il suo cuore batte per le persone che sono perdute. Lui non le sta giudicando, lui non le sta additando, lui non le sta rigettando, lui non le sta allontanando, lui le sta cercando. Amen? E questo deve essere il nostro sentimento. Questo è un elemento bellissimo che noi possiamo comprendere, l'elemento del sentimento che Dio ha per le persone perdute. È importante che noi lo diciamo. Non presentiamo una religione, per piacere, fratelli e sorelle. Non facciamo l'errore di andare a persone a dire devi cambiare, la tua vita non è buona, devi smetterla con questa cosa, devi smetterla con quest'altra cosa, perché quello che stiamo facendo è un errore, stiamo presentando prima la legge e i comandamenti di Dio, trascurando il bisogno che le persone hanno, prima di tutto di conoscere l'amore e la grazia sua, e il fatto che lui li accoglie così come sono. Il padre, nella storia del figlio prodigo, corre verso il figlio e lo abbraccia quando ancora puzza di maiali. È sporco di fango, ha vissuto e ha fatto delle scelte compromettenti e completamente lontane dalla volontà del padre. E prima ancora che il figlio apra bocca, il padre lo va ad abbracciare, ad accogliere, a far sentire il suo amore. Questo è quello che Gesù faceva, mangiando con i peccatori, stando con loro, facendo capire a loro che li amava, che li accettava così come sono, per poi cambiare la loro vita e trasformare la loro esistenza e portarli a comprendere che seguire Dio è la scelta migliore e abbandonare la via del peccato è la cosa migliore per le loro vite. Questo è il Vangelo e questo è ciò che noi siamo chiamati ad annunciare tutto attorno a noi. Ci piace? Questo è un elemento bellissimo che noi cogliamo, però c'è un altro elemento che a me piace tantissimo di questa storia. Ed è l'aspetto che Gesù, attraverso tutte e tre le storie, sottolinea e dà enfasi all'aspetto dell'individuo. L'abbiamo letto insieme. Gesù parla di una pecora su 100. Gesù parla di un dramma su 10. E Gesù parla di un figlio dei due. Sta parlando di un individuo, di una persona. E questo è un aspetto bellissimo che non dobbiamo sottovalutare. Dio ci conosce per nome. E Dio ci vede individualmente. E così fa anche con i perduti. E non vuole che noi cadiamo nell'errore di vedere il mondo attorno a noi da raggiungere. E perdere la consapevolezza che noi siamo chiamati ad individui, a persone, a relazione con singoli peccatori ancora non ravveduti che hanno bisogno di conoscere l'amore del Padre. Non perdiamoci nei numeri, Gesù ci sta incoraggiando a vedere quella pecora smarrita. C'è una cosa che viene ripetuta, una frase che viene ripetuta in tutte e tre le storie, ve la voglio leggere, una frase ripetitiva che proprio manifesta tutto il sentimento di Dio e tutta l'attenzione che il cielo addirittura ha per la singola persona. E la frase è questa, vediamo se la trovo. Nella prima storia ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Seconda storia. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Vedete com'è ripetitivo Gesù? Parla sempre del solo peccatore, di un solo peccatore. Per quella singola persona, il cielo intero si mobilita a fare festa. Dio non sta chiamando la nostra Chiesa a raggiungere le folle, le nazioni. È vero, è questo quello a cui siamo chiamati. Ma non possiamo fare l'errore di perdere di vista che c'è gioia nei cieli per quella singola persona, quel nome, quel familiare, quel vicino di casa, quel collega di lavoro che abbiamo la possibilità di raggiungere, quella singola persona. È l'oggetto della ricerca di Dio. E deve essere l'oggetto della nostra ricerca. Nell'ultima storia, Gesù dice che il Padre dà questa istruzione, questo comando, dice portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Che bello questo accento che Gesù dà al fatto che il cielo intero, gli angeli, si fermano dal loro grande affare per fare festa, per gioire. Noi non leggiamo la stessa cosa di altre cose. Dio ha piacere e ha gioia nel fatto che noi preghiamo. Dio ha gioia e piacere quando noi digiuniamo e prendiamo un tempo di qualità con Lui. Dio ha sicuramente piacere nel fatto che noi lo adoriamo e adoriamo insieme come chiesa, con la musica, in festa. Dio ha gioia nel momento in cui tu sei benedetto, hai una promozione, ottieni un buon lavoro o magari hai una benedizione dall'alto, hai un figlio. Gesù gioisce con noi di ogni nostra conquista, gioisce delle cose che noi viviamo, ma solo di un peccatore che viene a salvezza. Gesù dice che l'intero cielo fa scattare una festa, innesca una festa nella quale tutti gli angeli sono coinvolti. E ciò che fa gioire gli angeli, il cielo, Dio e tutti i luoghi celesti dovrebbe essere l'oggetto della nostra ricerca e della nostra gioia. Siamo d'accordo su questo? Capite perché io lo condivido con voi? Perché noi dobbiamo capire dov'è il cuore di Dio e qual è il suo sentimento e cosa lo porta a fare festa per cercare di vivere lo stesso tipo di gioia. Noi dobbiamo avere gioia nel portare a ravvedimento e a salvezza i perduti e fare festa di conseguenza con gli angeli nel cielo. È bello perché Dio è un Dio di gioia. Amen? Dio non è triste, io ho la convinzione che in questo momento nei cieli si sta facendo festa perché ci sono persone che si stanno ravvedendo. Ci sono pecore che vengono ritrovate, dramme che sono state perdute che vengono trovate di nuovo, figli che tornano a casa. Ed è bellissimo sapere questo. Al nostro Dio piace fare festa. Quando andremo in cielo noi faremo festa. A quanti piace fare festa? A chi piace mangiare bene? Alleluia, dice Pino. Credo che non solo lui, tutti noi possiamo dire alleluia, ci piace mangiare bene. La Bibbia dice che nel cielo ci sarà un grande banchetto, che mangeremo al tavolo con Dio, con i grandi eroi della fede. Quanti piace ballare, scatenarsi in festa, in gioia, dimenticare ogni preoccupazione? Beh, nei cieli non avremo preoccupazione, non avremo malattia, non avremo sofferenza per l'eternità. Capite perché? Capite perché è così urgente che noi facciamo nostra questa visione? Capite perché gli angeli fanno festa? Perché quegli stessi angeli hanno ordine da parte di Dio di portare le anime perdute all'inferno. Questo è quello che leggiamo nella parola di Dio. Loro sono incaricati a trasportare persone e portarle all'inferno. Capite perché gioiscono? Anche gli angeli. Perché nel momento in cui un peccatore si ravvede, significa che un'anima esce fuori da quella strada larga che conduce a perdizione e si immette in quella strada stretta che conduce a vita eterna. E c'è gioia nei cieli perché c'è la consapevolezza della gravità della condizione precedente e la gloria della condizione nuova in Cristo Gesù. Questo è quello che noi dobbiamo comprendere, che quando noi predichiamo, quando noi incoraggiamo, quando noi condividiamo Cristo agli altri, stiamo allungando il nostro braccio e allungando il braccio di Cristo Gesù affinché persone possano togliersi dalla strada larga che conduce a perdizione e immettersi nella strada stretta. Io credo in questa verità. Io non lo so quanta fede tu hai in questo, ma io credo, per questo io vivo. E mi piace quello che l'Apostolo Paolo dice, che la nostra fede sarebbe inutile se non crediamo in quello che avverrà nell'eternità, quello che avverrà dopo la morte. Anzi, l'Apostolo Paolo dice: se non c'è resurrezione, se non c'è un dopo a questa vita terrena, allora mangiamo e beviamo, tanto domani moriremo. Invece noi abbiamo un'urgenza, abbiamo una missione su questa terra, perché domani non moriremo, ma avremo un passaggio che vivremo. E con noi tante altre persone, noi dobbiamo vivere, abbiamo l'urgenza di vivere su questa terra con una missione ben chiara. Tirare fuori anime da quella strada di perdizione e immetterle nella via della vita eterna che si ottiene in Cristo Gesù. Io voglio rendere pratica questa visione per noi, perché io sento nel cuore che dobbiamo essere concreti come Chiesa in questo nuovo anno. Perché tutto quello che io ho detto finora, io credo che tutti noi lo conosciamo molto bene. Perché basta leggere poche pagine del Vangelo per rendersi conto di questa realtà. Quindi noi sappiamo benissimo, anche della missione alla quale siamo chiamati, quante volte abbiamo sentito che siamo chiamati come discepoli di Cristo Gesù ad andare e fare discepoli dei popoli. Però io vorrei che quest'anno noi entrassimo in una consapevolezza, in una responsabilità concreta, pratica, che possa rendere tutto così più vivo e più quotidiano per ciascuno di noi. Io non vedo la necessità che come Chiesa attiviamo nuovi programmi e nuove occasioni. Lo faremo, in virtù di Dono perché amo, abbiamo il desiderio di fare una grande manifestazione in piazza, ci piace? Con un gran bel palco, con un gran bello schermo, portando la nostra lode, la nostra musica, predicando, annunciando, facendo quello che facciamo qui, domenica dopo domenica, ma fuori da queste quattro mura, per dire all'intera città e a chiunque inviteremo che Gesù è per tutti. E io credo in queste attività, io credo in questi programmi, spero che voi non interpretiate male i miei discorsi in questo. Però io credo che abbiamo una responsabilità individuale, ciascuno di noi, prima di tutto per la nostra casa, per la nostra famiglia. E sapete perché lo dico? Perché se io oggi ho Cristo Gesù, è grazie ai miei genitori, non lo posso dire diversamente. Sono loro che mi hanno guidato a Cristo. Sono loro che hanno seminato la parola di Dio nel mio cuore. Sono loro che hanno avuto perseveranza. Sono loro che non si sono limitati e non hanno lasciato la responsabilità della mia conversione alla Chiesa, all'incontro domenicale o all'incontro del venerdì sera nei giovani. Loro si sono interessati quotidianamente di alimentarmi con la parola di Dio, con la preghiera, guidandomi, istruendomi, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo anche nel periodo, soprattutto nel periodo nel quale ero più lontano da Dio. E l'hanno fatto in tutti i modi, sbagliando anche. Tante volte io sono certo che non erano guidati dallo Spirito Santo, una confessione personale. Mamma mi lasciava biglietti dappertutto. Mamma è arrivata proprio ad arrabbiarsi con me, a dire: la devi smettere, non puoi vivere questa vita. E in altri termini, con tutta la rabbia che c'era dentro di lei voleva tirarmi fuori dalle compagnie sbagliate, dalla via che stavo intraprendendo. L'ha fatto in una maniera sbagliata, l'ha fatta con le sue forze, ma l'ha fatto. E lo Spirito Santo, quando lei si è fermata in preghiera, si è servita di lei. E a me sono arrivati dei semi e delle parole che io potevo riconoscere venire da Dio molto chiaramente. E quando mamma è sparita ed era presente Dio in mamma e attraverso mamma, lì ho cominciato a poter fare una scelta per me stesso. E oggi, se sono qui, lo devo alla testimonianza dei miei genitori e della mia famiglia. Dov'è tuo figlio? Dov'è tua figlia? Dov'è tuo fratello? Dov'è tua sorella? Dov'è tua madre, tuo padre? Magari sono persone perdute. Magari sono persone che non hanno Cristo Gesù. Ed è forte questa storia che Gesù dà della donna che spazza la casa per trovare la dramma perduta. È forte perché vedete, all'epoca le case non avevano delle finestre. Erano degli ambienti bui. E noi leggiamo con quanta cura e attenzione questa donna si è intenzionalmente messa alla ricerca della dramma perduta, ha acceso una candela in casa. e ha cominciato a spazzare. E io non so se hai mai vissuto questa situazione, no? Dove magari hai perso qualcosa e sai che è lì da qualche parte, e cominci questa ricerca e provi e riprovi, e magari a volte questa ricerca richiede giorni. Quanta gioia c'è quando tu ritrovi poi quella cosa persa? Però a volte buttiamo la spugna. Quante volte abbiamo perso qualcosa e ci siamo stancati, no? Perché l'hai ricercato il primo giorno e poi l'hai ricercato il secondo giorno e poi in te sono entrati dei pensieri a dire: è stato rapito in cielo questa chiave della macchina. Si è dissolta completamente. E a volte il diavolo viene con noi con queste frasi a dire: non c'è più speranza. L'hai già detto troppe volte, hai già avuto troppi rifiuti, ti è stata chiusa la porta già troppe volte. Posso incoraggiarti questa sera? Non ti stancare per i tuoi familiari. Accendi quel lume, prendi la scopa e comincia a spazzare, continua a spazzare. Continua a cercare. Potrei andare avanti per ore. Parlando dei familiari, quest'anno parleremo dei nostri familiari, perché la Bibbia parla di tante testimonianze di persone come Cornelio, che alla predicazione di Pietro hanno invitato i loro familiari tutti ad ascoltare la parola di Dio. Ed è bellissimo, negli Atti degli Apostoli leggiamo più occasioni dove famiglie intere vengono a conversione. Lo sai che Gesù è morto per i tuoi familiari? Lo sai che Gesù sta cercando i tuoi familiari? E lo so, a volte è la cosa più difficile, perché proprio i familiari sono coloro che ci conoscono meglio e conoscono i nostri peggiori difetti, no? E quindi a volte abbiamo meno credibilità ai loro occhi, perché la nostra testimonianza magari è ottima in piazza davanti a uno sconosciuto con un opuscolo in mano. A quella persona possiamo andare, no, con sicurezza e presentare la parte migliore di noi e dire: Gesù ha cambiato la mia vita, io sono, da quando ho incontrato Gesù sono sempre sorridente come mi vedi ora. E parlare di Gesù a uno sconosciuto a volte è più facile, a un familiare che ci conosce per quando ci arrabbiamo, ci conosce per i nostri difetti, diventa più difficile. Però sapete una cosa? Non è poi così difficile se siamo sinceri. E diciamo ai nostri familiari, ai nostri parenti: guardate, io non sono perfetto, ma è Gesù che mi aiuta in ogni cosa ed è Lui che mi perfeziona. E io voglio parlarti di quel Gesù, perché anche tu hai bisogno di Gesù, non per essere necessariamente una persona diversa e migliore, ma per ottenere salvezza per l'eternità. Gesù da sempre salva le persone attraverso persone. E tu forse sei l'unico mezzo e l'unica opportunità che i tuoi familiari hanno di conoscere Gesù e di uscire da quella strada larga di perdizione per intraprendere la strada stretta. Non possiamo essere superficiali in questo. Mi capite? Non possiamo avere un atteggiamento superficiale. Non possiamo lasciare questa responsabilità a un'ipotetica persona che magari può possibilmente incontrare i nostri familiari e parlare di Gesù. Non possiamo farlo, è nostra responsabilità. Le nostre case, le nostre famiglie sono la nostra responsabilità. I nostri figli, non dare per scontato che perché sono figli tuoi sono credenti, sono convertiti. Non è così. Dio non ha nipoti, Dio ha solo figli. E i tuoi figli devono accettare Gesù e devono sceglierlo per loro stessi. E se tu non prendi autorità, uomini, se noi non prendiamo autorità quali padri nella nostra famiglia e non ci impegniamo seriamente a predicare, a testimoniare, a pregare, è probabile che i nostri figli si perdano. E quale tragedia terribile. E poi magari andremo ad altri a chiedere di intervenire, ai responsabili dei giovani, al pastore, alla squadra pastorale, a qualcuno, per salvare, per portare a salvezza i nostri figli, e non ci rendiamo conto che prima e più di tutto è nostra responsabilità. I nostri vicini di casa, i nostri vicini di casa, posso citarli? Ci fanno un po' agitare? C'è quel vicino di casa che stende la sua tovaglia e puntualmente le briciole, i fazzoletti cadono sul nostro balcone, perché noi viviamo sotto. E quando lo incrociamo per le strade, per la strada o per le scale, il nostro sentimento non è una pecora smarrita che va cercata. Il nostro sentimento può essere piuttosto un lupo da ammazzare. E quindi mettiamo la nostra faccia peggiore, diventiamo scontrosi, non salutiamo e non ci rendiamo conto che invece Gesù ci sta chiamando ad avere compassione per il nostro condominio, per coloro che sono vicini a noi e che hanno la possibilità di vedere la nostra testimonianza. Fratelli, io non dico queste cose perché sono meglio e perché ci riesco, ma lo dico perché insieme possiamo farlo e possiamo migliorare. Ed è proprio questa la sfida che il Signore ci sta dando per questo nuovo anno: unirci e partire dalla preghiera. La preghiera è la prima cosa. E io ho cominciato a pregare per la mia vicina di casa, una donna anziana. Ho cominciato a pregare per il negozio che è sotto casa, per i tanti giovani che passano. Ho cominciato a pregare per coloro che sono attorno a me nel quartiere. E ho cominciato a pregare per i miei amici. E il Signore straordinariamente apre delle porte. Abbiamo cominciato a pregare ogni sabato sera quando ci riuniamo e già stanno emergendo delle testimonianze di come Dio sta in una maniera incredibile dando a ciascuno di noi che sta pregando per queste cose occasione di seminare la sua parola. A volte è molto semplice, siamo noi che complichiamo le cose, a volte siamo noi che pensiamo se sapessi parlare meglio, se avessi tutte le risposte, no? Se fossi una persona più preparata, se non avessi questo imbarazzo. E la parola di Dio dice in Atti 1:8: riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Sapete in cosa sta dicendo in altri termini questo verso? Che noi stessi non lo possiamo fare, perché è lo Spirito Santo che convince di peccato. Ma se noi ci alleiamo con lo Spirito Santo e cerchiamo lo Spirito Santo e ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, allora le cose possono cambiare. Perché attraverso lo Spirito Santo noi possiamo avere rivelazione di quello che è nel cuore delle persone che incrociamo. È lo Spirito Santo che ci può dare la capacità di amare anche quel vicino di casa che tanto ci disturba. È lo Spirito Santo che può mettere in noi un sorriso anche quando non abbiamo la forza di sorridere e di salutare, di essere gentili. È lo Spirito Santo che ci dà la possibilità di parlare un linguaggio profetico come Gesù l'ha avuto nei confronti della donna samaritana, per la quale ha avuto rivelazione di tutto quello che lei stava vivendo, di quello che stava passando, dei suoi traumi, delle sue difficoltà relazionali, e attraverso questa rivelazione profetica ha potuto portare lei a salvezza e annunciare la salvezza all'intera città. Lo Spirito Santo è la chiave. Tu puoi farlo, non ti arrendere, continua a spazzare quella casa. Non ti arrendere, continua a cercare i perduti. Non ti arrendere, continua ad insistere per la tua famiglia. Continua ad insistere per i tuoi vicini di casa. Prega per i tuoi colleghi di lavoro. Prega per i tuoi amici, quelli veri e quelli falsi. Quelli che incontri e quelli di cui hai solo un click che ti unisce di Facebook. Prega per i tuoi amici e datti occasione affinché lo Spirito Santo si possa servire di te, perché questa è l'avventura alla quale Lui ci sta chiamando. E vivere così è meraviglioso, perché andiamo oltre noi stessi e chiediamo allo Spirito Santo di fare miracoli attraverso di noi. Amen. Quanti vogliono vedere dei miracoli in questo nuovo anno? Quanti vorrebbero arrivare sinceramente? Potete abbassare ora le mani. Sinceramente, quanti di voi vorrebbero arrivare a fine di questo anno e poter dire: io ho ritrovato una pecora perduta, io in questo anno ho portato a salvezza per l'eternità una persona? Posso vedere la tua mano? Che bello, questo è il nostro cuore, ancora di più è il cuore di Gesù, vero? Quindi io vorrei che noi ci alzassimo in piedi e che in questo momento noi pensassimo a una persona, una sola persona, a un nome. Ok, non ti chiedo di pensare al condominio intero, ma a un vicino di casa eventualmente. O non ti chiedo di pensare a tutta la tua famiglia, ma a un componente della tua famiglia, ok? Solo una persona, proprio per rispettare quello che abbiamo letto e questa rivelazione di quanto Gesù è interessato alla singola persona, a quella singola anima perduta. Ce l'hai? C'hai un nome in mente? Un solo nome, una sola faccia? Ce l'hai in mente? Ok, chiudiamo i nostri occhi. E se in questo momento hai in mente un nome, hai in mente una persona, io ti chiedo di alzare la tua mano e io voglio pregare con te per quella persona. Oh Gesù, tu lo sai che ci sono molti più nomi in mente, ma noi vogliamo pregare e cominciare da questa persona che hai messo ora nel nostro cuore attraverso la guida dello Spirito Santo. Noi crediamo che sei in mezzo a noi, Spirito Santo, e che stai guidando questa riunione, e noi vogliamo chiedere che tu possa salvare questa persona. Oh Gesù, che noi possiamo essere il mezzo di cui tu ti servi per portare questa persona a salvezza per l'eternità. In questo momento noi benediciamo questa persona. Noi benediciamo ognuna di queste persone nel nome di Gesù e ti chiediamo che i loro cuori possano essere ammorbiditi. Padre, io prego che i nostri familiari, i nostri vicini di casa possano avere un cuore che è aperto all'Evangelo. E io ti prego, Padre, che noi possiamo prenderci carico e responsabilità di pregare, di lottare, di parlare, di invitare questa persona a conoscerti e a sperimentarti. Gesù, la salvezza che tu hai dato a noi, noi non vogliamo che sia solo per noi. Come qualcuno ha parlato a noi di te, noi vogliamo portare qualcun altro a salvezza. Noi preghiamo che in questo anno tu ci possa dare la grazia di portare almeno una persona a conoscenza della salvezza. Almeno una persona dalla via larga che porta a perdizione alla via stretta che conduce a vita. Gesù, noi preghiamo che queste persone che oggi sono cieche, che vivono nel buio, che possano vedere la tua luce e ottenere salvezza per l'eternità. Oh Gesù, vuoi tu fare questo attraverso di noi? Alimenta la nostra compassione, alimenta la nostra capacità di pregare e più di ogni altra cosa, la mia preghiera per ciascuno di noi è che tu ci possa riempire dello Spirito Santo. In questo momento che il tuo Spirito Santo possa scendere su ciascuno di noi e possa darci quella potenza, quell'autorità di parlare come tu parleresti, di agire come tu agiresti, di imporre le mani sui malati per vederli guariti, di parlare un linguaggio che è profetico e che va al cuore delle situazioni e delle circostanze sofferenti che le persone che incrociamo vivono. Padre, noi preghiamo affinché lo Spirito Santo ci possa essere dato nella sua pienezza e ripieni di te che possiamo agire non nelle nostre forze, attraverso le quali non arriviamo da nessuna parte, ma attraverso le tue forze, Cristo Gesù. Grazie Spirito Santo, a te la gloria e l'onore. Amen. Vogliamo mantenere ancora i nostri occhi chiusi, ma io voglio pregare per coloro che questa sera si sentono quella pecora, si sentono quella dramma, si sentono quel figlio che è sviato, è lontano dal padre, vorrebbero tornare tra le braccia del Padre. Posso dirti una cosa? Dio ti ama, Dio ti desidera, Dio ti sta cercando. E se tu sei qui questa sera, forse per la prima volta o per le prime volte, e hai sentito che queste parole hanno toccato il tuo cuore, è perché Gesù ti ama e ti ha portato in questo luogo per dirtelo. Ti ha portato in questo luogo perché Lui vuole salvare la tua anima per l'eternità. Lui vuole perdonare tutti i tuoi peccati e darti un nuovo inizio stasera. Lui ti ama a tal punto di essere morto per te. E ha portato su quella croce tutte le tue colpe, tutti i tuoi errori. E se tu accetti Lui nel tuo cuore e chiedi a Gesù di guidare la tua vita, di darti un nuovo inizio, Lui lo farà. Perché per questo Lui è venuto. Quindi ti chiedo di chiudere i tuoi occhi, dovunque ti trovi. E se questa sera dici sì, io voglio che Gesù cambi la mia vita e mi accolga, allora ti chiedo di alzare la tua mano in questo momento, dovunque ti trovi. Alza la tua mano affinché io possa pregare per te. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, che bello. Vedo tante mani che si sono alzate. Grazie Gesù. C'è ancora qualcuno che dice io voglio Gesù, io voglio il suo perdono, io voglio un nuovo inizio con Lui. Alza ora la tua mano e fallo come gesto di fede a Lui. Non è tanto per me, ma lo fai davanti a Lui. Che bello, vi ringrazio. Puoi abbassare la tua mano. Se c'è ancora qualcuno, ti chiedo di alzarla ora. C'è ancora qualcuno. Arrendi la tua vita, Gesù. Di Gesù, io voglio rimettere nelle tue mani il mio futuro. Ho guidato finora la mia vita ed è andata come è andata. Voglio dare a te occasione di guidarla da questo momento in poi. Non si tratta di accogliere una nuova religione, una nuova routine, delle regole da seguire. Si tratta di cominciare una relazione con Cristo Gesù. E io sento che c'è ancora qualcuno che vuole fare questa scelta questa sera e può farlo. Se ancora non l'hai fatto, alza ora la tua mano. C'è ancora qualcuno? Ok, allora preghiamo. In modo particolare coloro che hanno alzato la mano, ti chiedo di ripetere con me questa preghiera, come se fosse una preghiera che tu fai. Ti voglio guidare semplicemente affinché tu possa avere delle parole da dire a Gesù questa sera. E lo vogliamo fare tutti insieme come Chiesa, affinché nessuno si possa sentire solo nel fare questa preghiera. Quindi ripetiamo insieme: Gesù, io ti invito. Io ti invito a cambiare la mia vita. Ti chiedo di perdonare i miei peccati e ti chiedo di darmi un nuovo inizio. Perdona il mio passato e dammi un nuovo futuro. Io voglio la vita eterna, io voglio la salvezza eterna e ti chiedo di darmela questa sera in virtù di quello che tu hai fatto su quella croce, portando tutti i miei peccati. Io ti chiedo di lavarmi e purificarmi e di farmi camminare nelle tue vie. Grazie Gesù per il tuo amore. Amen. Amen. Amen. Per quello che abbiamo letto, c'è festa nei cieli. È vero? Quindi possiamo fare festa anche noi. Lodiamo il Signore, innalziamo il suo nome ancora insieme.